Così dice il Signore, una voce si ode da Rama, la mente pianto amaro, Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata perché non sono più.